cinema continua su Radio Onda Rossa. Infatti le interviste audio che realizzo per il mio blog tuttascena1.wordpress.com andranno in onda in forma registrata, quindi non in diretta, il giovedì sempre dalle ore 14 alle 15, e l'indirizzo di posta elettronica resta lo stesso: visionari@ondarossa.info. È con noi Corrado Punzi, regista del documentario Vento di Soave, che sarà proiettato all'Apollo 11 a Roma il 15 marzo. Corrado, benvenuto. Ciao a tutte e a tutti. Ci dici un po' di questo lavoro? Sì, Vento di Soave è un film girato a Brindisi, nella zona industriale, dove c'è un problema di inquinamento molto grande da svariati anni, perché esiste uno dei più grandi petrolchimici d'Europa e una delle più grandi centrali a carbone d'Europa, che è quindi la centrale a carbone Enel Federico II e il petrolchimico dell'Eni. E quindi è un problema che sentiamo molto in Puglia, perché ci sono delle percentuali di tumori, di leucemie elevatissime, 68% più alte di quelle europee, quindi capite che è un problema molto rilevante. Noi parliamo della Puglia, della Puglia dei paesaggi, dei bei paesaggi, cerchiamo di attirare turisti, però in realtà viviamo un problema grandissimo che la politica ha completamente abbandonato. Però non volevo fare un documentario solo su questo problema pugliese, ovviamente, altrimenti sarebbe stato guardare la Puglia dal buco della serratura, ma cercare di fare un film sulle contraddizioni del progresso, contraddizioni che coinvolgono tutti noi e che coinvolgono molti sud del mondo. Senti, il ruolo di Stefano Martella, il giornalista? Stefano Martella era un giornalista di un quotidiano online, prima cartaceo, 20 centesimi, facevano delle bellissime inchieste sul territorio, e Stefano si era occupato già in precedenza del problema dell'inquinamento della centrale Enel. E è stato lui a chiedermi di fare un documentario su questo tema, però lui aveva ovviamente un approccio giornalistico. Io gli ho spiegato che a me il tema interessava tantissimo, però avevo voglia, anche per il tipo di cinema che a me piace, di universalizzare questo tema e di non farlo quindi con un documentario prettamente, direi, televisivo di volti parlanti, ma di cercare di scegliere delle storie interessanti. E quindi, grazie ai primi contatti che lui aveva di contadini che aveva intervistato lì della zona, siamo andati a conoscere queste persone, abbiamo ampliato le ricerche, è un documentario che è nato in due. Poi ovviamente dalla sua prospettiva giornalistica si è mischiata con la mia più cinematografica, più sociologica. Direi che abbiamo realizzato un documentario etnografico, perché segue la vita di contadini che coltivano e vivono a pochi metri dalla centrale a carbone dell'Enel e non troppo distanti dal petrolchimico. Abbiamo seguito i prodotti coltivati in quelle terre, poi venduti e distribuiti in tutta Italia, e abbiamo scelto altri personaggi che potessero raccontarci in modo più ampio la complessità di questo tema. Senti, più o meno quanti sono stati i vostri interlocutori e poi quali sono le loro parole sul tema? Sì, noi abbiamo scelto quindi due contadini che erano, diciamo, il centro della storia, perché sono due fratelli che vivono proprio sotto la centrale dell'Enel. Uno dei due ha dovuto lasciare il lavoro da agricoltore perché ormai con l'inquinamento dei prodotti non riusciva più a venderli, perché ovviamente poi gli altri lucrano su questo aspetto, i rivenditori, e ovviamente abbassano tantissimo il prezzo d'acquisto di questi prodotti, poi rivendendoli a prezzi normali e cambiando le etichette. E quindi questi due agricoltori, poi abbiamo scelto un operaio del petrolchimico, che aveva un profilo molto contraddittorio, perché sia un operaio che un ambientalista, che frequenta i comitati ambientalisti, fa il sub, perché cerca di pescare dei pesci e verificare lui stesso se questi pesci hanno delle malformazioni. Però avevamo l'esigenza soprattutto di raccontare l'altra parte del conflitto, quindi raccontare l'azienda, e siamo entrati in contatto, abbiamo provato ad entrare in contatto sia col petrolchimico che con la centrale Enel. Petrolchimico è stato piuttosto restio, invece la centrale Enel è stata molto più disponibile al dialogo. L'addetto stampa della centrale di Brindisi, dell'addetto stampa pugliese, invece ha aperto un confronto con noi, ha capito la nostra prospettiva, ha capito che era meglio esserci e dire la propria piuttosto che non esserci. E così abbiamo avuto modo di seguire le sue attività, abbiamo avuto modo di seguire come una grande industria costruisce la propria immagine. Corrado, c'è la società civile si muove in tal senso e come? Guarda, la società civile c'è e si muove, noi abbiamo cercato anche di raccontare questo aspetto, l'abbiamo raccontato seguendo l'operaio del petrolchimico che frequenta appunto, come dicevo, un comitato ambientalista. Sì. Però questo comitato ambientalista, che ha una sede, una sua sede a Brindisi, però è un comitato, devo dire, seguito non da tantissime persone, i membri sono piuttosto pochi. Anche se poi cerca di costruire una rete con altre realtà come il movimento No Tap a Lecce, e questa rete si sta costruendo negli ultimi anni, grazie anche al gasdotto che stanno costruendo nel Salento, nella parte della provincia di Lecce. Però diciamo che il resto della popolazione, il resto della società civile, quindi la grande maggioranza, è piuttosto distratta, è un tema che non interessa più di tanto. Ma mi interessa perché quando parliamo di malattia, quindi anche quando mostriamo film sull'inquinamento, sulla malattia, lo spettatore tende ad essere restio, no? A volerli guardare, perché la vita quotidiana è diventata già difficile nel mondo del lavoro, nelle ore lavorative, quindi nel tempo libero una persona ha bisogno anche di svago. E quindi diciamo che l'impegno civile, diciamo, in tutta Italia è già un impegno civile che si sta un po' comprimendo. Senti questo titolo. Vento di Soave nasce da un verso della Divina Commedia di Dante Alighieri che chiama appunto con Vento di Soave la dinastia Sveva, in particolare Federico II, e si riferisce alla potenza impetuosa del vento, Soave di Svevia, era per lui, però era bella anche questa ambiguità dell'aggettivo Soave, no? Che si riferisce sia alla Svezia, quindi alla nazione di provenienza della dinastia di Federico II, che alla soavità di un vento che porta poi polveri inquinate, polveri mortifere. E Federico II, quindi il riferimento a un passato glorioso, in cui Brindisi era una città davvero importante, da cui sono partite le crociate, un grande scalo commerciale. E oggi invece un presente molto meno glorioso in cui il nome Federico II è collegato alla centrale Enel di Cerano. Senti, è una produzione fluid. Sì, è una produzione Fluid di Davide Barletti in coproduzione con Mood. Fluid è stata molto importante perché questo film, come dicevo all'inizio, è nato da due persone, poi diventa del tre col fonico, e diciamo che la grande base, la struttura del film sono state queste tre persone, però è chiaro che un film non può avere grande strada se poi si persevera solo in poche persone, non Certo, si cerca di allargare la squadra, e quindi è quello che abbiamo cercato di fare. E Davide Barletti della Fluid è stato molto interessato a questa idea, anche perché lui vive questo problema così come noi. Era un film difficile da produrre, ma grazie a lui e a Mood siamo riusciti a ottenere il finanziamento della Puglia Film Commission e a realizzare un film che poi è andato al Torino Film Festival e adesso andrà in un altro importante festival internazionale. ecco, dopo queste due tappe che ci hai appena detto, che percorso avete in mente per il tuo documentario? Il percorso che abbiamo in mente noi è quello che avrebbero in mente tutti quelli che fanno cinema e che desiderano che i loro film siano visti più persone possibili. Però sappiamo benissimo che mandare un documentario più o meno indipendente nelle sale non è facile, e magari con i percorsi dei cinema d'essai è un po' più fattibile di quello che cercheremo anche nei prossimi mesi, e anche venderlo alle televisioni è l'ambizione che abbiamo. Senti, a questo proposito, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, le pagine di Fluid Produzioni, dove c'è appunto il link al film, e di moodfilm.com, fluidproduzioni.com e moodfilm.com. E poi c'è una pagina Facebook di Vento di Solab Film, dove ci sono insomma tutte le informazioni utili per chi volesse saperne di più, sapere quali saranno le prossime date di proiezione e il futuro del film. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con il documentario Vento di Soave all'Apollo 11 a Roma il 15 marzo, seguito poi da un incontro con Corrado, con il produttore Davide Barletti e il giornalista autore del film Stefano Martella. Corrado, io ti ringrazio, un abbraccio, in bocca al lupo. Crevi, grazie a voi. A presto. Abbraccio. Eccoci con Alice Catucci di Sentieri Selvaggi per la presentazione del Sentieri Selvaggi Magazine numero 30, visione al femminile nell'era del Me Too, che ci sarà giovedì 15 marzo alle 19.30. Alice, benvenuta. Benvenuta, grazie, grazie. Allora, raccontaci un po' di questa... Intanto, per chi non conoscesse il magazine, spieghiamo cos'è. Sì, allora, il magazine Sentieri Selvaggi è un sito online che si occupa di critica e informazione cinematografica, e il magazine è un mensile che esce ogni mese. E proprio a fronte dello scandalo Weinstein, essendo noi un giornale, diciamo, che si occupa di cinema, abbiamo sentito l'esigenza di parlare appunto del Me Too, dell'era del Me Too. E quindi la rivista è stata assegnata a me e alla mia collega Martina Ponziani, il numero di questa rivista, che ci tenevamo a cercare di dare il più possibile una panoramica il più ampia possibile, perché comunque la questione è molto complessa. Quindi abbiamo cercato, per esempio, di trattare appunto della questione del Me Too sia appunto dal suo lato positivo, cioè del fatto che comunque può essere una rivoluzione che principalmente si muove nel web, però al contempo diciamo che è anche una doppia facciata. Quindi abbiamo cercato di dare il più possibile una panoramica ampia. Abbiamo inserito per esempio anche una cronologia degli eventi proprio dal 5 ottobre, quando è scoppiato lo scandalo Weinstein, fino a fine febbraio, tramite degli screenshot dei Twitter, di Instagram, proprio perché appunto è una rivoluzione che si sta muovendo molto sul web, e quindi in quanto tale è complicata, diciamo, cioè, perché si trova su una piattaforma abbastanza complessa, ecco. Complessa. Ecco, oltre a questo spazio, ci racconti un po' com'è strutturato questo numero? Certo, sì. Allora, il numero è strutturato ovviamente con l'editoriale di Aldo Spiniello. È importante dire che io e Martina ci tenevamo molto ad avere anche dei punti di vista maschili, perché inizialmente si era parlato di un numero tutto al femminile, quindi con contributi solo di giornaliste diciamo donna, e invece noi ci tenevamo, cioè in realtà era importante per noi inserire il punto di vista maschile. Di questo ne parlo anch'io nel mio, diciamo, articolo introduttivo, quando parlo del ribadire la differenza uomo-donna. Abbiamo questo articolo introduttivo, poi ne abbiamo un altro di Martina Ponziani, che ragiona sul fatto che il cinema già da tempo stava preparando, diciamo, il Me Too, cioè parla appunto di tutti i vari reboot al femminile, da Ghostbusters a quello che ancora dovrà uscire con Sandra Bullock, insomma. E poi ci sono altri vari articoli. Abbiamo provato a inserire, per esempio, a ragionare su come il cinema riesce a raccontare e a rispondere alla realtà che lo circonda. C'è un bellissimo pezzo sull'utilizzo e la rappresentazione delle donne negli action di Francesca Bea. Sì. Sì. Poi abbiamo due interviste, una a Elena Ricci Boccetto, che è un'importante scenografa italiana, una delle prime, diciamo, donne riconosciute, e una a Loredana Rotondo, ex programmista Rai, che nel 79 ha ideato il docufilm Processo per stupro, da cui è stato tratto lo spettacolo attualmente in scena all'Eliseo Hoff. Esattamente, Sì, esattamente, sì. sì. Diciamo che processo per stupro in questo periodo sta ritornando alla ribalta, Sì. e ne ha parlato anche il Post Italia, insomma, perché purtroppo è anche abbastanza attuale per certe cose. Ovviamente tante cose sono cambiate, Loredana per esempio nell'intervista ce ne parla. Sì. E poi abbiamo inserito una cosa a cui tengo molto è abbiamo chiesto a vari artisti di dipingerci o comunque raffigurarci la loro idea, cioè quello che questo periodo complicato e complesso gli ha scatenato dentro. Abbiamo vari quadri di vari artisti, fra cui Elia Novecento, Vanna Gloria, Martina Brodolini. E poi abbiamo due profili, un profilo dedicato a Sofia Coppola e un profilo dedicato a Verhoeven. Più o meno è strutturato È così. questo, ok. Allora ti chiedo a questo punto, Alice, visto questo focus speciale di questo numero sul Me Too, che idea ti sei fatta sulla questione? La mia idea sulla questione. Ma io ci ho ragionato molto, soprattutto partendo dal fatto che quando ne parlavo con la gente, soprattutto con gli uomini, c'è da dirlo, vedevo che la reazione era o da una parte esageratamente buonista, e quindi anche appunto questo ruolo della donna vittima, poverina, oppure c'era proprio una sorta di, non so, sentimento veramente quasi scostante. Quindi, cioè, tutta la reazione che c'è stata comunque fa capire che è un problema importante, cioè che era una cosa che doveva esplodere prima o poi. Tema sensibile, diciamo. Sì, ovviamente bisogna anche saperlo, è nato, diciamo, nell'ambito cinematografico in America con lo scandalo Weinstein, ma è importante riuscire da quello a capire appunto che ci sono ancora tanti passi da compiere. Per esempio, secondo me, l'aspetto appunto economico dei salari. Noi abbiamo inserito una bellissima articolo dell'attrice Brit Marling. Ci sono due traduzioni nella rivista, anche un racconto molto bello. Quindi diciamo che, se devo essere sincera, ancora adesso fatico ad avere un'idea veramente chiara. Cioè, quello che so è che è importante che sia uscito fuori. Ecco. Ok. Senti, ci dici anche della serata, come sarà articolata? Certo, la serata è appunto inizia alle 7:30 a Sentieri Selvaggi e ci sarà appunto la presentazione del. Sono presenti anche per esempio Loredana Rotondo e poi ci sarà a seguire, diciamo, un omaggio a Angela Ricci Lucchi, che è scomparsa il 28 febbraio, proprio poco tempo fa, la documentarista e regista. E appunto verranno proiettati dei suoi frammenti, dei suoi documentari in cui lei con il suo compagno utilizzavano i materiali già esistenti. Quindi diciamo che sarà una serata di found footage in onore di questa regista italiana. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento giovedì 15 marzo a partire dalle 19:30, Sentieri Selvaggi via Carlo Botta a Roma con ingresso gratuito. Un saluto e un ringraziamento ad Alice Catucci che ha curato questo numero 30 del magazine che sarà presentato in serata. Alice, un ringraziamento e a presto. Grazie mille, grazie a voi. Ciao. Eccoci con Damiano Ricci di Beam Distribuzione per parlare del film Oltre la notte di Fatih Akin in uscita in sala il 15 marzo. Damiano, ben ritrovato. Bentrovati anche a te, bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Allora, ci racconti un po' di questa brevemente, per sommi capi, di questa trama? Certo. Allora, il film è un film duro e di grandi emozioni. E ha al centro un personaggio femminile molto forte, interpretato da Diane Kruger, che ha ricevuto la Palma d'Oro come migliore interpretazione femminile al Festival di Cannes. E ed è la storia di una donna che perde il suo marito e suo figlio piccolo in un attentato terroristico ad Amburgo. La storia è la storia dell'elaborazione del lutto di questa donna e allo stesso tempo della sua voglia, diciamo, di giustizia. Questa, diciamo, in nuce è quella che proprio sarebbe la strettissima sinossi, perché in realtà è solamente l'innesco, la partenza del film. L'esito di questa ricerca di giustizia la porterà a identificare una cellula terroristica di un nazista come mandante, esecutrice materiale dell'attentato e intentare un processo cercare, diciamo, attraverso il processo e attraverso anche un'azione personale, diciamo così, quello che lei ritiene essere la giustizia per quello che ha dovuto sopportare, ha dovuto che ha avuto, diciamo, tendenzialmente. Ecco, questa è la trama in due parole. Senti, Fatih Akin era po' che mancava dall'Italia, lui era arrivato al grande pubblico qui da noi, soprattutto con La sposa turca, e insomma in quel periodo sono usciti diversi film suoi, quindi stiamo parlando di qualche anno fa. E poi cos'è? Poi comunque è arrivato col contagocce in seguito qui nel nostro paese. C'è da dire che Fatih Akin è un regista che almeno anche diciamo, nella sua frequentazione di festival è stato un po' discontinuo. In realtà credo che lui abbia già realizzato 6 o 7 film, se non erro. Quelli che sono rimasti più famosi e quelli che sono stati distribuiti in Italia sono soprattutto La sposa turca e Soul Kitchen. Non dimentichiamo che lui ha fatto anche I confini del paradiso, ha fatto anche un film chiamato Il padre, che di fatto è il suo ultimo film. In originale The Cat. C'è anche quel bel documentario sulla scena musicale turca. Esattamente, cioè turca in Germania, insomma. Sì. E infatti, no, è un regista prolifico, ma discontinuo, e soprattutto non è stato distribuito sempre nel nostro paese, comunque con grande fortuna. Questo è un film che, a mio modo di vedere, comunque a modo di vedere noi che siamo i distributori, siamo stati distributori anche della Sposa Turca e di Soul Kitchen, è un film che ritrova quelle atmosfere e quella forza espressiva e narrativa che Fatih Akin, che contraddistingue un po' il cinema di Fatih Akin che amiamo e che il pubblico italiano ha amato, insomma, negli anni passati. Quindi è un po' un ritorno a quelle stesse atmosfere, a quegli stessi personaggi forti. Soprattutto il pregio veramente di questo film è una straordinaria interpretazione di Diane Kruger e uno straordinario personaggio, ecco, oltre che una storia che è molto attuale e anche molto controversa, che riesce a parlare di terrorismo e delle responsabilità dell'Europa nei confronti dei flussi migratori, quindi anche un risvolto attuale che secondo me fa un film assolutamente da vedere, più che altro per confrontarsi, perché il cinema si è confrontato forse con questo film soprattutto problemi di straordinaria attualità. Damiano, dove lo avete incontrato il film e poi che scelta distributiva avete fatto? Allora, noi il film l'abbiamo visto per la prima volta poco prima del Festival di Cannes, della sua, diciamo, partecipazione al Festival di Cannes. Il film a Cannes ha avuto una grossa fortuna, nel senso che è un film che è stato amato dalla critica, anche se in alcuni casi ha creato un po' di divisioni insieme ai critici, proprio perché è un film che ha un finale aperto e comunque lascia pensare, e è un film che porta comunque a schierarsi in qualche modo, quindi interroga lo spettatore. Questo secondo me è un pregio, e quindi anche i critici si sono un po' divisi anche rispetto al messaggio, all'interpretazione del film. Però ecco, Cannes è stato una partecipazione fortunata per il film. Poi il film comunque ha avuto un cursus e noi abbiamo aspettato che questo cursus, tendenzialmente di successivi premi in altrettanti successivi festival, avesse compimento per poi portarlo al cinema nel momento in cui aveva piena maturazione. Il film, ricordiamo che ha vinto anche il Critics' Choice Award, che è un premio importante, un riconoscimento internazionale importante della critica americana, e poi soprattutto il Golden Globe come miglior film straniero. La nostra scelta distributiva è stata quella di aspettare, di confidare nel fatto che della bontà del film e quindi della possibilità di trovare consenso anche nelle principali manifestazioni nelle principali appunto, manifestazioni cinematografiche e portarlo nei cinema appunto in un periodo come quello di marzo, dove i film che hanno partecipato agli Oscar sono ormai usciti e quindi c'è in qualche modo possibilità di uscire con molte copie e di trovare sicuramente un riscontro del pubblico. Il film infatti uscirà in 124 copie, che per noi comunque è un'uscita larga e Sì, importante. sì. Damiano, com'è stata la risposta del pubblico all'estero? Molto buona, infatti ti ringrazio per la domanda perché questo avevo messo. Allora, il film in Germania ha incassato più di 1 milione di euro e ricordiamo che la Germania è un territorio, un mercato piuttosto difficile per i film d'autore. Questo dimostra che comunque Fedyaghin è un regista amato nel suo paese adottivo, perché ricordiamo appunto che Fedyaghin è un regista turco, ma comunque che lavora da sempre praticamente in Germania. E soprattutto è molto interessante anche il risultato della Francia. In Francia il film ha fatto 1,5 milione di euro, forse anche qualcosa di più, e questo insomma ci fa ben sperare per il risultato italiano, perché ci sembra che finora nei territori in cui è uscito, due territori sicuramente importanti per capire anche il termometro del pubblico internazionale, ha ben fatto. Benissimo. Allora, ricordiamo Oltre la notte, film di Fatih Akin, in uscita in sala il 15 marzo a cura della BIM Distribuzione. Un ringraziamento e un saluto a Damiano Ricci. Damiano, a presto. A presto, un saluto a tutti gli ascoltatori e anche a te, buona trasmissione. Siamo in collegamento telefonico con Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna, che distribuirà a partire dal 15 marzo il film Visage Village di Agnès Varda e J.R. È giusta la pronuncia? Intanto ben ritrovato Gianluca. Ciao, ma guarda, in realtà siccome lui è un artista francese di origini tunisine, in realtà sì, la pronuncia giusta sarebbe Jer, Ger. però è vero che è un artista molto misterioso, si sa pochissimo di lui, gira sempre con questo cappellino, non mostra mai il suo sguardo perché ha sempre gli occhiali nerissimi, so, chi conosce l'arte sa chi è, perché è considerato oggi uno dei più grandi artisti francesi viventi. Per chi conosce il cinema, magari invece è uno sconosciuto, è un artista famoso nel mondo perché fa fotografie che poi hanno un enorme formato e che incolla nei luoghi più particolari nel mondo, e quindi che ha fatto installazioni con queste straordinarie, bellissime fotografie incollate sulle pareti urbane, ma anche in piena campagna, un po' in tutto il mondo. E il film nasce da questo incontro improbabile tra questa artista molto piccola e molto anziana, che è Agnès Varda, mito della storia del cinema. Lei ha fatto 4 anni prima che Chiarone del Vag iniziasse un film che in qualche modo è già pienamente un film della Nouvelle Vague, che tra l'altro è anche il primo film di Philippe Noiret, quindi anche inventato, scoperto questo attore formidabile, e poi ha attraversato la storia del cinema con titoli che, anche se non sono stati visti, restano nell'orecchio un po' di tutti, perché Cleo dalle 5 alle 7 o Senza né tetto né legge non sono più soltanto dei film, ma sono dei titoli, delle frasi che appartengono all'eloquio comune. E poi ha fatto documentari formidabili, ha avuto grandi riconoscimenti in tutti i grandi festival, e recentemente è stata anche la prima donna a ricevere un Oscar alla carriera. Ed è abbastanza sorprendente pensare che ci sono voluti 90 anni di Oscar perché una donna venisse riconosciuta. Ma insomma, Agnès Varda poi, ecco, ha anche avuto una vita formidabile, per cui è una delle pochissime a essere diventata molto amica di Jim Morrison e ad aver visto Jim Morrison morto. poi c'è stata tutta la leggenda che Jim Morrison non sarebbe morto e, sì. E poi grandissima fotografa, recentemente Pompidou, Georges Pompidou ha fatto una sua mostra di fotografie di Cuba e insomma questa signora che ha oggi 89 anni aveva visto alcune installazioni di Jair e quindi due si incontrano, c'è una distanza di 55 anni tra i due. Jair è alto, è giovane, è magro, quindi sono un po' come Stanley Olio, ecco, due artisti che apparentemente non hanno niente in comune. Sì. E i due si innamorano l'uno dell'altro e decidono, dopo tre giorni che si vedono tutti i giorni, che vogliono fare un film assieme. E la figlia di Agnès Varda, che si chiama Rosalie Varda, che è figlia di Agnès e di Jacques Demy, che era il marito di Agnès Varda, comincia a cercare delle fonti di finanziamento. La prima fonte di finanziamento è un crowdfunding e i due decidono di attraversare la Francia, di fare una sorta di Tour de France per mostrare il presente, e fanno delle tappe molto curiose perché non cercano di incontrare i famosi, non cercano di incontrare i sindaci, i politici, le persone di cui normalmente si parla, ma scelgono invece di incontrare quelli che non sono noti e di raccontare il loro punto di vista in una maniera totalmente inedita, perché in ogni incontro si conclude con un'opera di Jair e quindi con con quello spazio urbano dove si sono incontrati rivisto completamente con queste gigantografie incollate sui muri dei luoghi che il film attraversa. Per quel poco che ho visto dal trailer, tra l'altro molto suggestive. Sì, io non conoscevo Jair, veramente non sapevo chi fosse, e devo dire che è un modo totalmente nuovo di rappresentare gli esseri umani. Ecco, io ho visto questo film a Cannes l'anno scorso, è stata un'edizione del Festival di Cannes non felicissima, in cui il film della Varda ha veramente preso uno straordinario valore, ecco, perché questo film della Varda e di Jair, vedi che ancora anch'io mi sbaglio, non sono abituato a immaginare che la Varda possa fare un film con qualcun altro e non l'aveva mai fatto, in effetti, e riescono a fare la cosa oggi più importante, credo, a fare un film pieno di umanità. Ecco, non a caso nella conferenza stampa di ieri a Milano la Varda ha detto che questo film è un antidoto contro la disumanizzazione dei nostri tempi, ed è proprio così. Ecco, è un film che non si prende sul serio, quindi non è un trattato sociologico. È molto giocoso anche. È un film molto divertente, è un film molto leggero, ma che in realtà, con la leggerezza propria di questi due artisti, riesce a parlarci, come raramente il cinema di oggi riesce a fare, del nostro presente, e a darci qualche suggerimento molto importante. È un film, secondo me, delizioso, è un film contagioso, è l'esatto contrario dei film da 200 milioni di dollari che ormai invadono la nostra vita e che forse alla nostra vita non danno assolutamente nulla. Gianluca, ci dici di questa distribuzione targata Cineteca? Sì, beh, questa è la prima volta che noi distribuiamo un film così importante di oggi. Noi normalmente distribuiamo i grandi classici della storia del cinema, ma in questo caso ci siamo portati avanti. Questo film diventerà un grande classico della storia del cinema. Sì. E il film esce in 25 sale da sud a nord in Italia. A Roma è al Sacher di di Nanni Moretti, e poi ed è in programmazione piena al Sacher, e poi farà alcune proiezioni al Minion. E beh, e forse non c'è un cinema più perfetto, no? Il Minion per questo piccolo film. Benissimo. Allora, un ringraziamento e un saluto a Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna. Cineteca di Bologna che distribuisce a partire dal 15 marzo Visage Village, un film di Agnès Varda e Ger. È tutto, grazie, mi sembra. Perfetto, perfetto. Gianluca, un abbraccio, a risentirci presto. A presto, grazie. È con noi Simone Totola di Officine Ubu per parlare del film Un amore sopra le righe di Nicolas Bedeau, in uscita in sala il 15 marzo. Simone, benvenuto. Ciao, ciao a tutti, ciao. Allora, per chi è all'ascolto, lo raccontiamo brevemente? Sì, certo. Allora, Un amore sopra le righe racconta di Sara e Victor. Lei è una studentessa di lettere e lui uno scrittore in erba, che una notte si incontrano per caso in un bar di Parigi. E da questo incontro fortuito nascerà un amore praticamente eterno. Sara e Victor passeranno insieme tutta la loro vita, più di 45 anni insieme, dal 1971 fino ad oggi. E saranno 45 anni di passione, di amore, odio, litigi e sorrisi, e dove Sara e Victor si lasceranno e si riprendono e ne combinano di tutti i colori, ecco. Ma è la cosa che li terrà uniti per sempre, oltre al loro amore irreversibile, è il grande segreto che Sara nasconde appunto con la complicità di Victor, un segreto che non vi svelo ma che vi invito a scoprire andando a vedere il film da domani al cinema. Simone, intanto il film l'ho visto, quindi l'ho anche apprezzato. Volevo sapere se sappiamo qualcosa di più rispetto alla nascita di questo film. È legato anche a una sorta di autobiografia? Sì, praticamente sì, perché Nicolas Bedeau, che è il regista e anche il protagonista del film, è il compagno nella vita vera anche di Doria Tiller, che appunto interpreta Sara. Quindi loro sono una coppia sia nella vita che nel film, e appunto molte delle situazioni che si vedono nel film sono prese da piccoli episodi che sono capitati a loro nel momento in cui si sono conosciuti e che hanno, diciamo, tradotto in immagini e nel film, ecco. Quindi sì, sicuramente ha anche un importante lato autobiografico, questo sicuramente. E poi sicuramente per quanto riguarda le dinamiche di coppia, l'umorismo e i dialoghi, c'è una certa brillantezza e originalità che non sfugge. Esatto, infatti è quello che ci ha colpito maggiormente nel momento in cui l'abbiamo visto per la prima volta. È un film che abbatte sicuramente tutti i cliché sull'amore, con dei dialoghi e delle situazioni veramente dissacranti ed esilaranti, ed è veramente uno sguardo originale tra due personaggi che hanno pregi e hanno difetti, ma soprattutto è un film che racconta di un amore tra due persone che sono due persone umane, ecco, che sbagliano e che commettono degli errori, ma che comunque fanno di tutto pur di stare insieme, perché loro hanno capito che sono indispensabili uno per l'altra. In Italia già conoscevamo Nicolas Bedeau? Nicolas Bedeau sì, era già arrivato un suo film che si chiamava Love is in the Air, era una commedia, ma questa è la sua opera prima. Quel film era, lui recitava, quindi era solamente un attore, questa è proprio una sua opera prima. In Francia in realtà lui è una star, perché è molto, molto conosciuto, molto presente nei programmi televisivi. E questo però è il suo primo film da regista, che in Francia è stato veramente apprezzatissimo, sia dal pubblico che dalla critica, e secondo noi era una buona occasione per, diciamo, per presentarlo anche al pubblico italiano, che sicuramente non lo conosceva ancora. Senti, per chi ci ascolta, diciamo anche due parole su Officine Ubu, l'esperienza di Ubu. Sì, certo, Officine Ubu nasce come casa di produzione nel 2001, e poi man mano ci siamo avviati più sulla distribuzione. Siamo, diciamo, specializzati in film di qualità sicuramente, soprattutto film d'oltralpe, quindi film francesi, commedie, ma abbiamo anche distribuito tantissimi documentari, come ad esempio l'ultimo nostro successo, Il senso della bellezza, documentario dedicato al CERN, che è andato molto bene ed è stato veramente un piccolo caso a suo modo. E abbiamo distribuito recentemente anche il documentario su Grace Jones, diva della musica e della moda, dello spettacolo, e prossimamente ne distribuiremo tanti altri, come ad esempio il primo documentario di Vanessa Redgrave, il premio Oscar Vanessa Redgrave, che debutta alla regia con un documentario dedicato ai rifugiati che uscirà ad aprile, e un altro documentario dedicato a Valentina Cortese, la diva del teatro e del cinema degli anni 50, e subito dopo Un amore sopra le righe, quindi diciamo abbreviando i tempi, uscirà La Mélodie, che è un film che è stato presentato con successo all'ultima mostra del cinema di Venezia. E diciamo questi sono i nostri progetti, sì. I prossimi progetti, ecco. Simone, per questo film che distribuzione avete pensato? Allora, Un amore sopra le righe uscirà appunto da domani in tutta Italia in circa 51 sale, sale di qualità, sale selezionate, e se volete appunto scoprire la sala più vicina a voi, basta visitare il nostro sito di officineobo.com. Ci sarà la scheda del film con tutte le informazioni utili, con anche tutte l'elenco delle sale, appunto dove vederlo. Benissimo. Allora, ricordiamo l'uscita in sala di Un amore sopra le righe di Nicolas Bedeau dal 15 marzo al cinema. Un ringraziamento e un saluto a Simone Totola di Officine Ubu. A presto. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ecco, noi Patrizia Rappazzo, che cura la 25esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival allo Spazio Oberdan a Milano dall'11 al 18 marzo. Patrizia, ben ritrovata. Buonasera a tutti, sono molto contenta, ci stiamo riscaldando in maniera frenetica perché inauguriamo la 25esima edizione domenica pomeriggio, in realtà, perché le proiezioni iniziano alle 15, l'inaugurazione ufficiale è alle 19.45 con un omaggio particolare a Lolita Chammat, protagonista del film Barrage, un'opera prima di Laura Schroeder, che interpreta insieme alla madre Isabelle Huppert. È un'edizione molto ricca, abbiamo lavorato veramente tantissimo con grande determinazione, perché ogni anno è sempre più difficile mettere a punto un'edizione di questo tipo. Però per chi ci ascolta per la prima volta, spieghiamo cos'è Sguardi Altrove. Allora, Sguardi Altrove nasce 25 anni fa con un'idea precisa di portare il cinema delle donne anche nella città di Milano. E allora erano pochissimi i festival che si occupavano di regia femminile, per cui una città come Milano ne mancava, e quindi è stata l'occasione proprio per pensare di aprire una rassegna a donne registe provenienti da tutte le parti del mondo. L'idea è sempre stata quella di promuovere la cinematografia al femminile, con uno spazio significativo ai nuovi talenti, a cinematografie nuove e soprattutto a quel cinema indipendente che trova difficoltà a entrare nei circuiti commerciali. Quindi ogni anno abbiamo veramente presentato un numero altissimo di titoli, quest'anno ne abbiamo 70, ma ci sono stati anni in cui abbiamo avuto anche delle edizioni ancora più ampie, più ricche, con tantissimi ospiti. In questa occasione gli ospiti anche adesso in realtà sono parecchi, e ci apprestiamo proprio a ricevere e a ospitare anche il pubblico che ci segue, che nel corso del tempo si è sempre, come dire, reso disponibile a partecipare anche attivamente agli incontri in sala, alle votazioni, perché abbiamo anche un concorso dedicato proprio al pubblico, con una premiazione fatta dal pubblico, quindi una giuria popolare. Insomma, il rapporto con la città è sempre più intenso, sempre più significativo, e abbiamo realmente un grosso seguito. Ecco, Patrizia, a proposito degli incontri in sala, è prevista la presenza delle autrici? Sì, sono parecchie le autrici che quest'anno verranno, accompagneranno i loro film, Abbiamo un focus dedicato alla cinematografia bulgara al femminile, con una tavola rotonda in collaborazione con il Centro Culturale Bulgaro di Roma, il Consolato Bulgaro e in collaborazione con il Parlamento Europeo, l'Ufficio di Milano, e ci sarà proprio uno spazio di riflessione per presentare questa cinematografia che da un punto di vista, come dire, i cinefili sicuramente la conoscono, chi si occupa di cinema in particolare ha conoscenza di questo cinema, ma il pubblico la conosce poco, per cui è un pregio, come dire, presentare un pezzo di storia del cinema fatta dalle donne bulgare, registe bulgare, che hanno fatto buona parte della storia del cinema del loro paese. Patrizia, come è strutturata questa edizione, questi giorni dall'11 al 18? Allora, come da tradizione abbiamo delle competizioni internazionali con una novità quest'anno. Il concorso internazionale Nuovi Sguardi, che solitamente era dedicato alla fiction, quest'anno ospita anche il documentario, che a pieno titolo, a pieno diritto, rientra proprio nella competizione al pari proprio del film di finzione. Sono 13 titoli con una panoramica veramente internazionale, i film provengono da tutte le parti del mondo. Abbiamo un finalista del premio Lux Western, un film bellissimo che ci pregiamo di presentare in collaborazione con il Parlamento Europeo. Abbiamo appunto Barrage, che, di cui dicevo, della Laura Schroeder, interprete, Lolita Shammai, Isabelle Huppert, che appunto sarà in sala, e questo è un fuori concorso con cui apriremo. E poi abbiamo dei film francesi che attraversano più di un film, sia quello francese Le Bienerot, che attraversa, come dire, i temi dell'assoluta contemporaneità, tra la guerra, i problemi religiosi, la guerra, con le grosse difficoltà che l'Algeria ha ancora con la Francia, insomma, questo in particolare con il film francese, ma in realtà tutti i titoli, anche nel concorso internazionale cortometraggi, raccontano l'attualità politica e sociale, proprio trattando temi molto forti della migrazione e degli orfani della guerra, la guerra in Siria. Insomma, è un festival che, come ogni anno, attraverso il cinema rilegge un po' la contemporaneità, la storia. Uno spazio significativo avrà, con titoli dedicati, una riflessione sulla violenza contro le donne nel privato e nei posti di lavoro, a cui seguirà poi successivamente un incontro a cui sono stati invitati rappresentanti diversi di associazioni che si occupano di questo, ma con una particolarità: quest'anno siamo riusciti a invitare anche delle associazioni che aiutano gli uomini che hanno operato violenza, per cui, come dire, è un incontro proficuo per approfondire proprio la riflessione su questo. In chiusura, Patrizia, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, allora il sito è sguardialtrove.it, noi siamo allo spazio Oberdan di Milano, via Vittorio Veneto 2. Un'ultima cosa che avevo dimenticato, ma in realtà me l'ero conservata per ultimo: saremo anche a Roma dal 19 al 20, alla Casa del Cinema di Roma, dove saranno proiettati film che hanno vinto l'edizione 2018, e dove sarà premiata Francesca Archilugi con un premio alla carriera, perché nel programma di quest'anno, che verrà presentato a Milano, c'è proprio un omaggio dedicato a lei. La Francesca Archibugi è stata invitata anche dal prorettore dello IULM, professor Gianni Canova, e dalla direttrice della scuola civica Luchino Visconti di Cinema di Milano, per fare delle lezioni di regia e di sceneggiatura, e a Roma la premieremo proprio in occasione di questa serata dedicata a lei. Ancora alla Casa del Cinema di Roma, il 19, il premio del Sindacato Italiano Giornalisti Cinematografici, alla presenza, verrà consegnato da Laura Delli Colli, al film vincitore del Frame Italia, cioè il concorso dedicato al cinema italiano indipendente. Allora, ricordiamo l'appuntamento per la 25esima edizione di Sguardi Altrove Film Festival allo Spazio Oberdan a Milano dall'11 al 18 marzo e alla Casa del Cinema a Roma 19 e 20. Un ringraziamento, un saluto e un in bocca al lupo a Patrizia Rappazzo. Grazie, grazie A mille. presto, ciao Patrizia. Grazie, ciao. Ritrovato Maurizio Di Rienzo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con te per parlare di Italia Docca, la casa del cinema, a partire dal 6 marzo il nuovo appuntamento. Ci racconti un po', Maurizio? Sì, volentieri. È un ciclo di documentari italiani che dall'anno scorso abbiamo focalizzato un po' di più attraverso i percorsi ormai veramente antologici e vari, variegati del cinema del reale. Su ritratti che qualche volta coincidono anche con delle persone, dedicati a persone del mondo dello spettacolo e non, del cinema e non solo. Quindi è comunque un ciclo di lavori, pomeriggio 17-17:30, il martedì e il giovedì a marzo e 3 martedì ad aprile, quindi dal martedì 6 marzo al martedì 17 aprile, con repliche poi. La domenica alla Casa del Cinema cominciamo con il lavoro di Fabri Corsicato, L'arte viva di Julian Schnabel, che è andato anche come evento nelle sale. È davvero un ottimo film, un ottimo sguardo pieno di vitalità e di informazioni sul poliedrico Schnabel, che un po' ha rivoluzionato l'arte insieme ad altri newyorkesi e non solo degli anni 70, 80, eccetera, e che poi è stato grande regista. Ricordiamo Basquiat, dedicato a un grande artista, e Lo scafandro e la farfalla. È davvero un bel film. Bene. E poi l'8 marzo, mi capita da 3 anni che io abbia uno spazio alla Casa del Cinema, infatti dico 8 marzo, non ci posso fare niente, non lo scelgo io, e allora mi capita e che io faccio? Allora invito qualcosa che abbia a che fare in qualche modo. E quest'anno abbiamo quel bel ritratto, visto al Festival di Roma, di Giorgia Wurt, che è un'attrice, su Salvatrice Elena Croce. Chi è? È Sandra Milo. Che viene fuori davvero in maniera inedita, appassionata, anche disincantata, con acume e anche autoironia. La 83enne Sandra Milo è ben più dell'icona felliniana e basta che si credeva che fosse. E poi altro ritratto, quello di Giuseppe Bertolucci, straordinario, poliedrico, direttore della Cineteca, figlio di poeta e poeta egli stesso, drammaturgo, regista di teatro e di cinema, il fratello minore, ma quanto gli è costato essere minore e nello stesso tempo molto amato, fratello di Bernardo Bertolucci. Ecco, il documentario è Viva Giuseppe di Stefano Consiglio, il 13 marzo. E poi via via andiamo avanti, c'è anche la botta grossa di Sandro Baldoni sugli effetti del terremoto devastante dell'Umbria di un anno e mezzo fa, che non ha fece vittime ma ha creato molti problemi a un'enclave bellissima italiana, del paesaggio nostro appenninico, ed è un film davvero delicato, intenso e motivato. E anche poi Happy Winter ad aprile di Angelo Totaro, La spiaggia di Mondello e tutti i palermitani al bagno, un po' Domenica d'Agosto di Emmer, che si raccontano nelle loro, come dire, vitali mediocrità. Il 10 aprile la scena di Toni De Marchi, giornalista malato, con la sclerosi, ma che organizza le sue cene con un gruppo di amici e di intellettuali, non sono cose fini a se stessi, e quindi uno squarcio di vitalità in una vita evidentemente un po' bloccata da questa scure del male. Elisabetta Pannimino ne fa un ritratto davvero molto interessante. Mellare e Rossi, che lavorano sul concetto dei nostri cinque sensi nel Novecento, in qualche modo rapiti dalla macchina, I'm in love with my car, e tutte le evoluzioni e involuzioni di quello che la macchina e l'automobile rappresenta nel mondo, soprattutto occidentale. Questo è il 29 marzo. Insomma, e poi altri. Sono 9 appuntamenti per 10 documentari in tutto. Maurizio, giovedì avverrà anche qualcos'altro rispetto ai documentari? Giovedì, sì, è vero, marzo, mese pazzo, i documentari spesso sono pazzi e molto avvolgenti, un genere cinematografico ormai, ripetiamo, eterogeneo e quasi indefinibile, meno male. E ci sono i Nastri d'Argento, il premio che il Sindacato Giovani Cinematografici Italiani, di cui faccio parte, sono nella veste di mi tolgo il cappello, insomma, qui non c'è nessun conflitto di interessi, ma interesse nel conflitto, diciamo così. di preselezionatore. Quest'anno abbiamo preselezionato 104 documentari nelle tre sezioni, fra cinema del reale, una cinquantina, una dozzina di docufiction e poi molti dedicati a cinema, spettacolo e arte. Quindi da varie selezioni si è arrivati a delle cinquine finaliste. Il primo proclameremo i cosiddetti vincitori dei nastri con qualche sorpresa. Posso dirvi quali sono le cinquine, abbiamo comunicato ieri, finaliste dei nastri d'argento, lo faremo allo spazio Wigil a Largo Ashanghi, al lato del cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti, un nuovo spazio che ospita anche mostre, iniziative, e siamo contenti di essere lì, che credo sia uno spazio congruo, tanto quanto lo è la Casa del Cinema, lo è stato e lo è per altre cose dei documentari. E se vuoi ti elenco al volo le cinquine? E come no? Benissimo. Cinema del Reale e Barbiana 65, dedicato a Don Milani, ed è di D'Alessandro. Fammi recuperare il nome. Barbiana 65, la lezione di Don Milani di Alessandro D'Alessandro. È un lavoro visto a Venezia, un lavoro che recupera archivio e con delle cose proprio inedite, mai viste, di quel particolare sacerdote, insegnante, uomo di cultura che fu Don Milani. Poi Ferrante Fever di Giacomo Durzi, dedicato alla misteriosa scrittrice, davvero un bel lavoro che fa il punto su chi è, come e perché di Elena Ferrante. La Botta Grossa, che ho citato prima, di Sandro Baldoni. Mondo Zate, il prolifico inesauribile Gianfranco Pannone, sulle terre zavattiniane, oggi a 60 anni di distanza da quel grande intellettuale che fu Zavattini, che le raccontò. E poi My War Is Not Over di Bruno Bigoni, che è dedicato a un soldato, ex soldato della Seconda Guerra Mondiale inglese, che ancora oggi è vivo, ha 93 anni, che ha dedicato la sua vita a trovare delle tombe adeguate, a trovare dei riconoscimenti per tanti cadaveri di soldati alleati morti in battaglia, che erano completamente dei militi ignoti. È un film davvero toccante e essenziale, in una sola ora racconta davvero tante cose. Fra i docufiction, Controfigura di Radi Martino, un gioco fra Italia e Africa di finzione, di documentario, con le complicità di Timi e Golino, anche presenti nel film. Diva di Francesco Patierno, che racconta alcune cose del divismo femminile attraverso la reinterpretazione da parte di 9, credo sono le attrici di oggi, insieme a materiale del passato, un'operazione davvero particolare vista il Festival di Venezia. Ancora più particolare i 37 minuti di Antonietta De Lillo, tratti dalla lezione all'università, credo, di Kafka, quella dell'uomo scimmia, la fece il Gassman epocale in teatro, l'ha fatta anche qualcun altro. Il signor Rotspeter, stavolta è Marina Confalone, irresistibile attrice, trasformatasi. Poi c'è un altro lavoro su un'attrice norvegese, Karenina Endai, un'attrice norvegese che va in Russia, il suo viaggio verso la Russia, dalla Norvegia, a interpretare Anna Karenina. L'attrice è la moglie di Tommaso Mottola, che è il direttore di Capalbio Cinema, ma qui fa il regista, ed è davvero un documento molto interessante, a metà fra creazione, finzione, psicanalisi, in cui Freud e Kafka intervengono in questo Anna Karenina Dostoiano. E infine l'epopea di un giornale da non dimenticare, L'Ora di Palermo, che è vissuto per 25 anni, in anni molto forti dell'Italia, del boom economico e poi delle contestazioni degli anni di piombo, La Corsa dell'Ora, in cui Pippo Del Bono interpreta quel direttore carismatico del giornale di Palermo, in un lavoro di Antonio Bellia che ricostruisce la storia del giornalismo e della nostra società civile e politica. Infine, last but not least, i 5 finalisti dei documentari sul cinema e lo spettacolo. Aciambra, il padre di Giona Scarpignano, che lavora alla Columbia University, ha fatto un backstage, che non è solo un backstage, dello straordinario film nominato per l'Italia agli Oscar di Carpignano, che era a Cannes l'anno scorso, a Ciambra. E Viva Giuseppe, un lavoro di Stefano Consiglio su Giuseppe Bertolucci, l'ho nominato prima, sì. Sull'antologica vita di Giuseppe Bertolucci. Poi La Lucida Follia di Marco Ferreri, che Anselma Dall'Olio ha dedicato al regista più evidentemente iconoclasta, controverso e secondo me straordinario per certi aspetti del nostro cinema recente, e ci sono tante cose inedite in questo lavoro. Poi Pino Daniele, Il tempo resterà, un lavoro approfondito di Giorgio Verdelli, che è un critico musicale, un organizzatore musicale, su tutto quello che Pino Daniele ha significato di amicizia, di poesia, di rapporto con la terra, con la cultura e di musica nella sua epopea. E infine Italian Jobs, la storia della Paramount in Italia, misconosciuta, molto interessante perché aveva radici italianissime, una delle sette sorelle di Hollywood, e l'ha realizzato l'ormai inarrestabile regista di storie cinematografiche, che è Marco Spagnoli. Senti, Maurizio, a questo punto ricorda anche il giorno e l'orario. Ah, volentieri, è all'Ex Gil giovedì 1 marzo, 9, quindi praticamente oggi, vuol dire avremo già comunicato in queste ore i vincitori, per cui non li ho detti, ma poco conta, in realtà tanta discussione per scegliere, perché è stato molto difficile, ci sono state speciali al di là del premio in sé. È un modo per focalizzare il mondo del documentario italiano, che da anni il Sindacato Giornalisti Cinematografici cerca di fare nella maniera più eclettica e anche imprevedibile possibile, dando rilievo anche a piccole storie, a piccoli film, tant'è vero che fra i segnalati ci sono Sara di Pistolini sulla violenza purtroppo, sul femminicidio, Talien che è stato premiato a Torino, davvero molto interessante, o Metti una sera a cena con Patroni Griffi, lo stesso lavoro di su Schnapper di Corsicato, Moravia Off, Lionello e Brunello di Jacopo Quadri, insomma sono segnalati perché evidentemente sono dei documentari molto interessanti, e arrivare alle cosiddette cinquine per chi sceglie non è mai facile, alle volte è felicemente ingrato come compito. Bene, invece ricordiamo Italia Doc, la casa del cinema qui a Roma dal 6 marzo al 17 aprile con Maurizio Di Rienzo. Maurizio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi, buoni documentari a tutti, come amo dire in maniera banale, ma credo logica. Ok, ciao Maurizio. Ciao. Ed eccoci con Alessandra Speciale, direttrice della 28ª edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano dal 18 al 25 marzo. Alessandra, ben ritrovata. Ciao, buongiorno. Allora, ci racconti un po', intanto per chi non lo conoscesse, quali sono le caratteristiche fondanti del festival? Beh, sai, 28 anni di vita di un festival che è nato come Festival del Cinema Africano, portando 28 anni fa, quindi si parla del 1991, i primi film africani in Italia, e poi nel 2004 ci siamo aperti ai tre continenti e continuiamo a rimanere molto legati a film di giovani autori che vengono da questi paesi emergenti. E questo è il nostro concorso di lungometraggi, quindi da Africa, Asia e America Latina. Sono tutti in prima italiana, sono film che spesso hanno avuto premi e riconoscimenti in festival internazionali e che siamo molto felici di presentare a Milano, e la maggior parte dei film sono accompagnati poi anche dal regista, che possiamo incontrare sia in sala sia nel nostro Festival Center. Sono ormai 10 anni che, oltre alle sale cinematografiche, abbiamo anche un luogo, un punto di ritrovo per gli ospiti del festival e per il pubblico in Porta Venezia, uno dei caselli di Porta Venezia, che si anima durante la settimana del festival con tutta una serie di programmazione che diventa quasi un festival nel festival, di incontri, di mostre, e diciamo tutta la programmazione extra cinematografica si concentra in questo luogo, quindi molto cinema ma anche altro. Certo. Senti, quante le opere presentate in questa edizione, e poi come è suddiviso il festival? Allora, parliamo di una sessantina di film, sì, che sono quasi tutti replicati in queste 6 giornate di proiezione, perché è una settimana, ma il primo giorno, che è il 18, facciamo solo l'apertura. E divise, come ti dicevo prima, in un concorso, che è il concorso principale di film lungometraggi Africa e America Latina. Poi rimaniamo sempre molto attenti all'Africa e a quello che portano i giovanissimi autori africani, per cui abbiamo un concorso cortometraggi africani, che è poi il concorso che ci ha permesso di vedere crescere i grandi, che sono diventati poi registi di diciamo, internazionale come Abderrahman Sissako e come Mahmoud Saleh Haroun, che è venuto nel 92 da noi col suo primo cortometraggio e aprirà invece quest'anno il festival, l'opening, con un film che appunto ha avuto un grande successo internazionale, in Saison en France, in prima italiana, con Sandrine Bonner ed Eric Ebouanet. E quindi ti dicevo, questo concorso cortometraggi africani per noi è sempre molto importante perché ci permette di fare un vero scouting di giovani, di quello che sta accadendo in Africa con i registi alle prime armi. Poi abbiamo ormai da 10 anni un concorso di film italiani, il concorso Extra, ed è un concorso in cui ci concentriamo su film italiani girati nei 3 continenti o girati sulle tematiche dell'immigrazione in Italia. E 10 anni fa, quando abbiamo cominciato, ricevevamo 10-15 film. Ecco, quest'anno e anche l'anno scorso sono 2-3 anni che per la selezione ne riceviamo più di 70. Questo significa che i registi italiani sono sempre più attirati dai 3 continenti per appunto girare i loro film, ma soprattutto le problematiche dell'immigrazione sono diventate forse uno dei temi che più ispirano i nostri giovani registi. In questo concorso presentiamo film di tutti i formati, cioè dal lungometraggio al mediometraggio al cortometraggio. Accanto a questi 3 concorsi abbiamo poi la sezione Flash, che è la sezione in cui presentiamo opere di registi più affermati, cioè più quindi grandi maestri del cinema di Africa, Asia e America Latina. E quest'anno abbiamo, oltre appunto a Mahmoud Saleh Haroun, che vi dicevo aprirà il festival con In Saison en France, portiamo un film di Aung San Suu, il penultimo film, che però è ancora una prima in Italia, On the Beach at Night Alone, che vinse l'anno scorso l'Orso d'Oro alla Berlinale come miglior interpretazione femminile. Poi non potevamo non portare in Italia l'ultima opera postuma del maestro cileno Raul Ruiz, la telenovela Errante, che ha lasciato inconcluso dal grande regista e poi concluso dalla moglie Valeria Sarmiento, che è appunto una regista anche lei. E poi dalla Cina un film che ha avuto un blockbuster, che ha avuto un grandissimo successo in Cina, l'ultimo film firmato da Chen Kai-ge, forse molti di voi ricorderanno Addio una concubina. Ecco, adesso Chen Kai-ge negli ultimi anni si è rivolto a un cinema, diciamo, più commerciale, ma sempre di grande qualità. Sì. The Legend of the Demon Cat, tra l'altro è un film che ha una particolarità unica, nel senso che è la prima coproduzione, grande coproduzione cino-giapponese, e in effetti è tratta da un libro di uno scrittore giapponese e vede la compartecipazione sia di giapponesi che di cinesi nel cast, ed è una grande novità anche da un punto di vista politico. Oltre che artistico. E concluderemo il festival il sabato, cioè il festival comincia anche continua domenica, ma la serata conclusiva di premiazione sarà sabato sera e sarà seguita da un'altra anteprima di un grande regista, un giovane ma molto noto nel suo paese, l'Egitto, Amr Salama, che porta una commedia, Shake Jackson. Quindi abbiamo deciso quest'anno di chiudere con un film molto ironico e brillante, che racconta la storia di un imam, quindi di un sacerdote islamico, fan di Michael Jackson, che alla notizia della morte improvvisa della pop star manda in tilt la sua esistenza. E poi vabbè, non vi dico altro, comunque una commedia che ha battuto ogni incasso al botteghino in Egitto e che penso divertirà e affascinerà anche il nostro pubblico. E oltre a questa sezione flash che vi dicevo, avremo dei film fuori concorso, film che per noi era magari già passati a Milano, che per noi era molto importante portare, come ad esempio l'ultimo documentario di Andrea Segre, Ibi. E la novità è che oltre al documentario presenteremo a Milano la mostra fotografica dedicata appunto alla protagonista del documentario, Ibi, che era una donna appassionata, migrante irregolare, appassionata di fotografia e di video, che ha filmato praticamente tutta la sua vita e insieme alla sua vita anche quella di oltre 20.000 italo-africani che vivono tra Castelvortuno e Caserta. E quindi seguiremo la sua vita attraverso il documentario di Andrea, ma avremo poi anche la possibilità di vedere in mostra le opere proprio di Ibi. E per concludere, un piccolo ma grande omaggio a Idrissa Ouedraogo, che è scomparso un mese fa. Per chi non lo conoscesse, è stato uno dei più grandi registi africani, diciamo colui che ha cominciato a portare il cinema africano ai grandi festival internazionali, mettendo premi a Cannes e a Venezia, e che è stato importante non solo per questo, ma anche perché ha creato come una scuola, e poi da lui sono partiti, si sono ispirati al cinema anche molti ragazzi dal Burkina, ma anche da tutta l'Africa, perché hanno visto in lui una speranza per lo sviluppo di una carriera artistica. E lo omaggiamo con uno dei suoi film più belli, Samba Traoré, un film del 1993 che aveva il vincitore dell'Orso d'Argento al Festival di Berlino nel 1993. E quindi insomma sarà un momento per noi insomma anche di raccoglimento, perché è stato anche un grande amico, nel senso che già nel 91, quando abbiamo fatto la prima edizione del festival, lui era presente con Tilai e poi è venuto con tutti i suoi film. E io poi personalmente ho vissuto anche a lungo in Burkina Faso, insomma, quindi è molto legata a questa persona, e quindi sarà per noi importante fare questo omaggio. Mm-hmm. E abbiamo anche un evento speciale, nel senso che abbiamo un presidente della giuria quest'anno eccezionale, Michael Nyman, il grande musicista che molti di voi ricorderanno, compositore delle colonne sonore di Greenway, la più famosa invece quella che l'ha reso noto internazionalmente, Le lezioni di piano, che è anche un regista, e quindi verrà da noi in giuria, e poi avremo il modo di seguire una sua masterclass in cui mostrerà alcune sue opere che ha firmato come regista. Alessandra, ci riassumi brevemente anche i luoghi del festival? I luoghi del festival, per chi ci conosce già, rimangono gli stessi, e li cito: l'Auditorium San Fedele, che è una sala in cui apriamo e chiudiamo il festival, in cui presentiamo gran parte della programmazione; e poi lo Spazio Oberdan, un'altra sala ormai storica del festival, alcuni film anche al Cinema Palestrina, e alcuni film nel weekend anche a una nuova piccola sala salotto, mi viene da dire, Wanted Cineclan, che accoglierà alcuni film della sezione extra. Poi siamo quest'anno anche a Palazzo Litta Cultura, che è un nuovo palazzo dedicato alla cultura, con una meravigliosa mostra di cui siamo partner, Africa, che è una mostra che si propone di esplorare l'arte contemporanea africana nella fotografia e nel design. E anche nel nostro Festival Center avremo delle mostre inedite, tra cui una mostra di Nicola Localzo, Ciamba, è un fotografo italiano ma vive in Francia, in Italia è poco conosciuto, ma adesso sarà anche a Roma a luglio con il suo lavoro, e ha fatto un lavoro straordinario, per cui vi invito caldamente a venire a vedere le sue foto. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con la 28ª edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina. come immagine a una serie di zebre in versione digitale ed ha come slogan la tripla W che non sta per World Wide Web, ma per What a Wonderful World. Se posso aggiungere, che Sì. stavo dimenticando, sta anche un po' per World Wide Web, perché la scelta del claim non è casuale, ma perché facciamo lunedì 19 facciamo una tavola rotonda proprio su come le nuove tecnologie stanno cambiando l'Africa, e parleremo proprio del web in Africa e dell'influenza anche di internet, non solo nello sviluppo in generale del paese, ma anche nella produzione artistica. Benissimo, a Milano dal 18 al 25 marzo. Un abbraccio ad Alessandra Speciale, che ne è la direttrice, e a presto, un bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Il cinema continua su Radio Onda Rossa, infatti le interviste audio che realizzo per il mio blog tuttascena1.wordpress.com andranno in onda in forma registrata, quindi non in diretta, il giovedì, sempre dalle ore 14 alle 15, e l'indirizzo di posta elettronica resta lo stesso, visionari@ondarossa.info.